Linee d'ombra di Matteo Caccia. Questo è lo speciale di Linee d'ombra del sabato, in cui vi raccontiamo un pezzo di quello che vi raccontiamo in ogni puntata. Ogni puntata di Linee d'ombra dura un'ora, dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, e vi raccontiamo grosso modo 3, 4, a volte 5 storie, ma chiudiamo sempre con la stessa storia, cioè con una storia seriale che episodio dopo episodio si sviluppa nel tempo e poi si conclude nell'arco di 3, 4, 5 settimane. Abbiamo cominciato questa settimana una nuova storia seriale che è molto curiosa e anche un po' inquietante, la storia di Silvia Bencivelli, una giornalista scientifica che scrive un articolo per smontare una delle più grandi bufale di sempre, e cioè la bufala delle scie chimiche. Scrive questo articolo nel 2013, adesso sentiremo quell'articolo e poi scopriremo che cosa accade. Nel 2013 io ero una freelance, una giornalista scientifica, all'epoca scrivevo per La Stampa e scrivevo di scienza, anzi più specificatamente, se non erro, in quel periodo scrivevo più di ambiente, vabbè. E un giorno, non mi ricordo perché, il mio allora caposervizio, che è uno molto simpatico, che appunto sa fare evidentemente il proprio mestiere, mi scrisse: senti, gira questa bufala, perché non ricostruisci un po' com'è nata e non ne fai un bel pezzo brillante? E mi disse una frase che io da quel momento giudico molto puzzolente, una roba del tipo: con la tua bella penna brillante. Io non potevo sapere che le fake news sarebbero diventate un mio cavallo di battaglia negli anni a venire, ma sapevo benissimo che una giovane giornalista freelance deve prendere al volo le proposte che le arrivano, e quindi accetto la proposta. Così il 15 settembre 2013 esce questo articolo qui. È una bufala volante che percorre i nostri cieli da più di 15 anni. Una bufala minacciosa che parla di sostanze chimiche rilasciate tra le nuvole da misteriosi aeroplani scuri per avvelenare l'aria e provocare addirittura dei genocidi. Eppure è una bufala di cui sappiamo tutto, vita, morte e miracoli. Da quando fu lanciata su internet da una maldestra banda del buco, a tutte le volte che è stata smentita al di là di ogni dubbio sensato. È la storia delle cosiddette scie chimiche rilanciata su internet con la caparbia irragionevolezza dei complottisti e la complicità, chissà se ingenua, dei politici di mezzo mondo. Oggi continua a spaventare, probabilmente ad arricchire qualcuno e sicuramente a fare sghignazzare molti altri, ma come tutte le bufale che si rispettino, ha una storia lunga e istruttiva. Il padre delle scie chimiche si chiama Richard Finke. Non era uno scienziato né un esperto di aeronautica, non aveva nessuna competenza in ambito di spionaggio. Però si mise in società con un altro tizio che aveva aperto un'ambiziosa ditta di consulenza contro gli attacchi terroristici. Era il 97, i due, per farsi pubblicità, cominciarono a spammare email in cui annunciavano l'imminenza di un attacco, ma le cose andarono male e i due non si procurano clienti. E allora Finke passò al contrattacco e scrisse a una mailing list sul bioterrorismo la seguente mail: il direttore di Aquatech Environmental rivela oggi di avere trovato 1,2 dibromoetano, una sostanza molto tossica e cancerogena, in campioni di acqua raccolti da contadini di Maryland e Pennsylvania. La sostanza sembra essere mescolata al carburante degli aerei e dispersa costantemente nei nostri cieli. Le linee che riempiono i nostri cieli non sono scie di condensazione, vengono disperse e possono durare ore, rilasciando lentamente il flagello. Il titolo, in perfetto stile complottardo, era scritto in maiuscolo e cominciava con Genocide on a Wholesale, cioè genocidio all'ingrosso, e conteneva la bellezza di 5 punti esclamativi su 15 parole. La bufala cominciò così a volare, finché nel 99 non trovò una legittimazione mediatica in un programma radiofonico dedicato a complotti e ufologia. Ma le principali prove dell'esistenza del fenomeno sono al momento fotografie del cielo, cieli azzurri o grigi di campagne di città, su cui si vedono coppie di strisce bianche che si allargano e poi si dissolvono in fiocchi o in strie, che si intrecciano, si confondono tra loro. Solo con una rapida ricerca su internet se ne trovano centinaia, forse migliaia, sono state scattate in tutto il mondo da fautori della cospirazione aerea internazionale. Ci sono poi le fotografie dei velivoli che le rilascerebbero e in Italia dei cosiddetti elicotteri neri. Secondo gli esperti di fotografia sono solo foto contro luce di normali elicotteri, ma per i seguaci del complotto sarebbero strumenti del grande progetto di diffusione delle scie chimiche che di volta in volta controllerebbero il territorio o disperderebbero le sostanze tossiche. Spell my- io all'epoca, peraltro, non mi occupavo per niente di bufale, di fake news, eccetera. E ricordiamoci che all'epoca non se ne parlava. Le fake news sono sempre esistite. Le bufale, le leggende metropolitane esistono da quando esiste l'uomo, da quando abbiamo la possibilità di raccontarci cose. Del resto si scopre, continua così l'articolo, che esisterebbero anche aerei bianchi deputati a spruzzare sostanze tossiche ad alta quota. Per gli esperti di aeronautica, bella scoperta, quasi tutte le livree degli aerei sono bianche, soprattutto sulla pancia, e tutte, viste dal basso, soprattutto in condizioni di aria umida, ai nostri occhi appaiono più chiare di quanto non siano, e perdono i dettagli. Infatti, guarda caso, aerei bianchi ed elicotteri neri non avrebbero finestrini. Volendo esagerare tra le varianti più bizzarre della teoria, si deve anche segnalare la presenza di aerei invisibili, dei quali ovviamente non esistono foto e talvolta addirittura di scie chimiche invisibili. Oltre a Jay Reynolds, anche alcuni debunker nostrani del CICAP, come Simone Angioni, chimico dell'Università di Pavia, si sono messi a dare delle spiegazioni. In sostanza la sintesi è questa qua. L'atmosfera è un fluido non omogeneo, in continuo mescolamento, e le condizioni di temperatura, umidità e pressione variano anche nel giro di poche decine di metri, così come variano i forti venti in quelle altitudini. Per cui il gas di scarico degli aerei forma scie di condensazione che non hanno sempre lo stesso aspetto e la stessa durata. In generale, dice, perché si formino ci vogliono temperature basse, quindi l'aereo deve trovarsi ad alta quota, ma quanto alta non si sa, dipende. E comunque è impossibile misurare l'altezza di un aereo ad occhio o con strumenti grossolani qui da terra. E poi c'è la questione del contenuto delle scie chimiche, di cosa sarebbero fatte. Di un sacco di cose, dal bario ai virus, da nanoparticelle a strani vaccini, da pesticidi tossici a misteriosi protozoi, fino a OGM alieni, spiega sempre Angioni. Alcuni siti portano a sostegno della teoria analisi chimiche condotte sui campioni di terra, acqua, di materiali biologici raccolti sotto la scia in verticale, come se le polveri cadessero per terra da 10 km di altezza giù, a piombo, diretti. Molte di queste analisi riferiscono di concentrazioni di elementi chimici come il silicio, il bario, l'alluminio, in linea con la naturale presenza di questi elementi nel suolo terrestre. Per qualcuno di recente c'è anche il sospetto di un complotto internazionale per indurre modifiche climatiche con microparticelle metalliche o cose simili, che nasce dalla confusione con esperimenti veri e pubblici di modifica delle microcondizioni climatiche. Ma in sostanza, niente di dimostrato e niente alla fine di veramente spaventoso. Insomma, solo una bufala che vola. Eppure ci sono innumerevoli interrogazioni parlamentari che l'hanno sollevata, anche in Italia. L'ultima è del dicembre del 2012 e la penultima del 2011 presentata dall'onorevole Domenico Scilipoti. E poi trasmissioni televisive e radio che generalmente sono dedicate ad altri tipi di temi che non la scienza. Altrettanti sono stati i relativi chiarimenti emessi dagli organi tecnici e scientifici nell'inane sforzo di far fuori questa bufala. Ci si è messo anche l'altro debunker, Paolo Attivissimo, che sul suo sito pone un legittimo dubbio. Chi sarebbe tanto fesso da distribuire agenti tossici in aria attraverso scie bianche in campo azzurro, pur sapendo che oltre alle sue vittime anche lui stesso li respirerebbe? Nonostante tutto, la bufala delle scie chimiche continua a viaggiare indisturbata. Chissà perché. Secondo Angioni, la ragione è molto umana. La convinzione di essere i salvatori del mondo è appagante, soprattutto se si può diventare eroi restando comodamente seduti alla propria scrivania, mentre rivedere le proprie convinzioni significa tornare alla dura realtà. Così molti preferiscono rimanere nel mondo delle cospirazioni globali, quello in cui le bufale volano, ad esempio. All my suffering, all useless. All my suffering to mange my face. When I'm far away, I forget. When I be far away, I yeah. Quindi di pochissimi minuti si è scatenata, probabilmente qualcuno ha un alert, sai che escono articoli su questa cosa, avvertimi. E quindi fai conto, erano, metti che ne so, le 10 del mattino, l'articolo era uscito su carta al mattino stesso, ma nessuno aveva comprato il giornale di carta. Quando è uscito sull'online, nel giro di pochi minuti, io mi sono trovata un primo messaggio su Messenger che diceva: Zoccola, cosa ti sei permessa di dire? E poi una tonnellata di insulti a seguire, tutti più o meno scritti nella stessa maniera. In quel giorno ero rimasta a dormire dal mio fidanzato di allora. L'articolo era uscito su carta, ma ovviamente queste cose si scatenano su internet. E questa tribù che mi ha attaccato non è gente che esce e paga per avere un giornale. Queste persone non hanno colto l'uscita dell'articolo di carta, ma quella online, che era una sorta di digest della versione su carta. Quando ho trovato quel primo commento su Messenger, mi sono detta: che stranezza. Non mi era mai capitato di essere insultata per un articolo. Mi ha un po' inquietato, ma non mi sono allarmata. Poi, comunque, non sono un'ingenua, lavoro nell'informazione, ho lavorato in TV, mi era già capitato di essere esposta. Io allora non frequentavo l'ambiente dei debunker, i cosiddetti disingannatori, né del CICAP, il Comitato per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ma avevo alcuni amici che ne facevano parte, e uno di loro... Ma qualcuno di loro, conoscendomi e conoscendo il mio indirizzo, mi mandò prontamente un messaggino dicendo: guarda cosa sta succedendo su queste bacheche dei complottisti italiani. E quello che stava succedendo era che il mio articolo veniva esposto e veniva scritto sopra: andate e bastonatela bene bene. C'era quest'uso del verbo bastonare che mi colpì molto. Poi, nelle poche ore successive, però, questa montagna di insulti mi ha letteralmente travolto. Ma non faccio in tempo a pensarci, perché dal giornale mi chiamano per dirmi che erano stupiti per quanto stesse diffondendosi l'articolo. Aveva una quantità di condivisioni impressionante. Hai il triplo delle condivisioni di Gramellini, mi dissero. In poche ore avevo raggiunto 60.000 condivisioni. Io sono una che, se ho 100 like per una foto su Facebook, mi inquieto. Chi sono sti 100, mi domando. Per cui metto sempre meno foto della me vera e sempre più legate soltanto al mio lavoro. Invece tutte quelle condivisioni erano soverchianti, era una roba ingestibile per me. A chiunque ne parlassi, amici, colleghi e così via, a chiunque sembrava assurda la mia reazione. Mi dicevano: ma stai calma, come se fosse questo il problema. Nessuno aveva una spiegazione. Anni dopo ho scoperto che era già successo ad altri, ma allora anche i miei colleghi non avevano idea della possibilità di un fenomeno del genere, dell'esplosione di una violenza cieca, gratuita per un niente. Avevo scritto un articolo corretto, ma sostanzialmente innocuo. Era la ricostruzione di una storia che era già stata raccontata e non era spiegabile l'accanimento nei miei confronti. Se avessi scritto un articolo in cui pestavo i piedi a qualcuno di importante o con errori clamorosi, mi sarei dato una spiegazione, ma non era il mio caso. Il fatto che nessuno avesse mai vissuto una roba del genere, che tutti sottovalutassero la mia reazione e che tutti mi sapessero dire soltanto «stai calma», mi faceva sentire molto, molto sola. Se tu fai il confronto rispetto alla popolazione italiana, 300-400 sono pochi, ma per un singolo essere umano ricevere 400 email di insulti invece è una montagna. Certo. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate, anche grazie alle vostre segnalazioni. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Linee d'ombra. Quindi questo accade. Accade che una giornalista scrive un pezzo, tra l'altro non andando a fare delle indagini, ma semplicemente trovando delle dichiarazioni preesistenti e quindi semplicemente facendo una forma di ricerca e mettendo insieme un bel pezzo che racconta per quale motivo la madre di tutte le bufale è una bufala. E quello che accade è quello che tra poco ci racconterà. Ho scritto un articolo divertente, per carità, un articolo carino su cui io avevo lavorato anche il giusto, era fatto bene, sono orgogliosa, insomma, ecco, era un bell'articolo. Però, ragazzi, stavamo parlando di una stupidaggine, capito? Cioè, in un mondo dove i giornalisti andrebbero veramente formati prima, poi incoraggiati a lavorare, poi pagati e poi difesi, no? C'ero io lì a parlare di scienze chimiche, era quasi ridicolo. Ma questo lo dico adesso. La domanda che mi sono fatta da subito è stata: perché? Perché contro di me? E la risposta che mi sono data è stata che in genere queste cose si scatenano contro i deboli, contro gli indifesi. Io ero una giovane giornalista freelance, senza troppe tutele, femmina. Se non fossi stata femmina, non si sarebbero accaniti così su di me, perché è più difficile prendersela con un maschio. È una categoria meno interessante, ci sono meno cose da minacciare. E poi la femmina è più interessante da spaventare per un branco di lupi tutti maschi. Ti immagini che si spaventi anche di più, quindi è più divertente, è più indifesa. Poi è vero che generalmente ha meno potere. Se vuoi su Google trovi la mia faccia e puoi mandarla in giro, fare dei fotomontaggi, cosa che infatti è stata fatta. E quindi al di là del mio carattere avevo tutte le caratteristiche del ruolo della vittima. Era abbastanza semplice prendermi di mira. Io non creavo nessun problema a nessuno, a loro di sicuro. Queste persone non avevano nessun problema legato alle scie chimiche, perché le scie chimiche semplicemente non esistono, quindi probabilmente avevano una montagna di altri problemi nella vita. Si erano messi d'accordo di chiamare la scia chimica responsabile dei loro problemi, e in quel momento io ero diventata quella che negava sia il problema sia il legame tra il problema e la scia chimica. Chiaramente quella delle scie chimiche fino a pochi anni fa sarebbe stata una fiaba che ciascuno si sarebbe raccontato nella propria vita, nel chiuso della propria casa o al bar, ma vivendo ormai in un unico villaggio globale, queste persone hanno potuto aprire la porta, farsi forza l'un l'altro e buttare su quelli come me le proprie nevrosi. Perché poi lì io mi sono trovata a chiedermi: ma questa gente, ma perché se la prende con me, che non mi conosce? Cioè, io sono come una per strada a cui qualcuno ha detto vai picchiatela, e questi mi hanno picchiato. Perché gli esseri umani si comportano così? Quello che hanno sottovalutato è che io so difendermi abbastanza bene. Ho un'amica avvocata molto brava che ha capito come aggirare certi cavilli che quasi sempre rendono questo tipo di processo irrealizzabile, perché spesso vengono archiviati. Invece lei ha rilevato alcuni errori del capo dei persecutori che hanno permesso di andare avanti. Straight through the roof, straight through the hole in the ceiling. Take your place in the sky. Oh, look around at the clouds that hold you, that hold you. burns around you, that burns around you. They encircle you and make a tornado from the air. Oh, it feels just like you dreamed, just like you dreamed. Oh, your shoulders are clear. They have given up the weights and the knots, the weights and the knots, the weights and the knots. No more gravity around you, no more gravity, no more gravity. Per questo, 8 giorni dopo il primo articolo, il 21 settembre del 2013, esce sulla stampa quest'altro mio articolo. Le scie bianche rilasciate dagli aerei che di tanto in tanto può capitare di vedere alzando gli occhi al cielo non sono la prova di un complotto globale ordito ai danni degli abitanti di questo pianeta, ma una leggenda nata nel 97 negli Stati Uniti a scopi sostanzialmente pubblicitari. È stato per aver raccontato questa storia e ricordato alcune verifiche scientifiche basilari e condivise che la sottoscritta, autrice dell'articolo comparso sull'ultimo numero della stampa, è diventato il bersaglio di centinaia di mail contenenti insulte e minacce. Da ammazzati a quelli come te fanno una brutta fine, da sei un burattino, una venduta, una vergogna per il genere umano, al più ovvio e desolante puttana. Trattandosi di giornalista femminile, è quasi scontato. Non sono arrivati solo insulti espliciti, ci sono stati quelli che hanno rabbiosamente invocato il beneficio del dubbio, ma impiegando una pletora ingiustificata di punti esclamativi, e quelli, numerosissimi, che hanno avanzato il sospetto che oltre alla canonica retribuzione del collaboratore da parte del giornale ci sia stato un pagamento da parte di entità misteriose, ed è servito a poco far notare che in questo caso avrei scelto di firmare con uno pseudonimo, magari al maschile, e che comunque sotto questo stesso cielo ci vive anche l'intera redazione della Stampa. Infine ci sono stati quelli sinceramente preoccupati delle cose che si leggono su internet, magari offesi dal tono saccente, sentendosi trattati da ignoranti o stupidi, e in generale desiderosi di avere un ulteriore chiarimento sulle scie bianche rilasciate dagli aerei. A questi ultimi ho provato a rispondere. Dagli anni 50 del secolo scorso si è cercato di capire perché a volte gli aerei rilascino scie bianche nel cielo e a volte no. La risposta è che da altitudini di 10 km, dove volano gli aerei di linea e la densità dell'aria è circa un quarto rispetto a quella qui in basso, le condizioni di temperatura e umidità sono molto mutevoli. Il vapore acqueo contenuto nel gas di scarico degli aerei perciò può solidificare e rendersi visibili anche da terra, oppure no, dipende. Del resto, le stesse nuvole a volte si formano e a volte no, e quando si formano hanno aspetti diversi tra loro e sono più o meno persistenti nel tempo. Negli ultimi decenni il traffico aereo mondiale è aumentato, tutti noi vogliamo con una frequenza molto superiore rispetto a quando eravamo bambini, che il cielo era azzurro e le nuvole le potevi toccare. Allora perché ci stupiamo che lo facciano altri terrestri? E quindi che il cielo sia ovunque solcato da un numero di aerei crescente? Ma poi, a chi spetta l'onere della prova? A chi afferma da anni l'esistenza di un piano di sterminio globale dell'umanità? Peraltro assai inefficiente, verrebbe da dire, o a chi non ne trova la ragione né riesce ad avere uno straccio di fonte attendibile sul dottor Stranamore di turno. Potete riascoltare la nostra storia seriali sul nostro sito all'indirizzo di Linee d'Ombra sul sito di radio24.it, oppure potete anche ascoltarvi tutto il podcast delle nostre puntate lì tramite il sito oppure tramite qualsiasi app con cui vi scarichiate il vostro podcast. Vi auguro una buona domenica e noi torniamo lunedì alla solita ora alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!